24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Io gli unici cannoni che ammetto sono quelli che dovrebbe fumarsi Giovannardi. Vabbè, ma Piero Pelù al concertone del primo maggio, i cannoni di Giovanardi. Evviva, cari italiani, sono le 7:16 minuti e ci siamo anche oggi un po' più tardi a quest'ora, ma arriveremo anche un po' più in là, un po' più tardi per l'appunto, fino alle 9:30 oggi. E io mi sento un po' nudo però senza i giornali. Intanto mi sono preso i giornali di ieri, qua con la carta, ho la padania di ieri, ecco, perché mi sento un po' senza i giornali. Sono arrivato stamattina, dico, già senza i giornali, poi diluvio a Milano. Poi uno legge, che ne so, che l'amministratore delegato della Ford se ne andrà in pensione a luglio con una liquidazione da 300 milioni di dollari. 300 milioni di dollari, si chiama Alan Mulally. E vabbè, dico, ma oggi è una giornata proprio di quelle faticose, eh? Però la Juve è uscita dalla Coppa, dai, vedi che dispiace un po' per Conte, però non è che ci sono proprio solo cattive notizie, eh? Cattive notizie non solo, c'è anche qualcosa per cui magari... E poi c'è, insomma, uno si sveglia e dà il buongiorno alla nostra Aurora Lussana, Aurora Lussana, direttore della Padania, direttorissima. Buongiorno Milan, un caro saluto a te e un caro saluto agli amici di Radio 24 e a tutti quei leghisti che seguono la mattina anziché Radio Padania o di Radio 24. Eh beh, certo. E ce n'è qualcuno. Ce n'è qualcuno, traditore, sì. Ma verrà stanato subito e con un po' di garrota e di... Ma io li becco. Perché ieri ero al concertone. Sì. E che concerto? Ah, ecco appunto. Il concertone di Pontida, certo. Di Van der Sfross. Trovatemi subito un Van der Sfross. Un grande artista. Questo è vero. Sì. Il mio Tenco è la Edo del Lago di Como. Scusa. E tu che soffri che non ci sono, sì, i giornali, dovresti imparare dal Davide Van der Sfross. C'è anche una tradizione orale fra i popoli, straordinaria, non legata alla carta, c'è cioè una tradizione socratica, è inutile scrivere. Socratica. Se ci tramandiamo il nostro sapere attraverso l'oralità, attraverso gli aedi, la cultura, si tramanda. Senti come il giro di chitarra di Van der Sfross, poi mi hanno detto, senti. Ma è live questa, Peter? Oh, è beccato. Forse live, forse addirittura live. Non è dal concerto di ieri di Pontida, però. E a Gusle un gigante con la crapa buienta che il bufa e che mola i soschiaf. E picchia il mortaio sui volti sudati di tutta la piazza della... Dillo, altro che Piero Pelù, altro che i cannoni di Giovanardi. Dillo che ce l'hai dentro, nello stomaco, che vuoi. No, le sfibe mi piacciono. Se venivano le sfibe e poi veniva il Piero Pelù, che adesso piace così bello anti-Renzi, se veniva Pontida, l'avremmo accolto con un grande applauso. No, infatti, ecco, non toccatemi, Piero Pelù è un grandissimo Elite FIBA e Piero Pelù hanno fatto la storia della musica. Allora, vogliamo aprire il Parlamento? Ma sì, apriamolo anche oggi, dai, apriamolo alle 7:20, un po' in ritardo, siamo dei piccoli debosciati anche noi. Volentieri a tutti quanti. C'è sempre la grande forza, Nicole Minetti che offre il caffè a tutti. E allora, visto che hai citato Piero Pelù anti-Renzi, senti cosa ha detto Pelù, eccola là, Pelù su Renzi. Piero Pelù su Renzi. Il non eletto, ovvero sia il boy scout di Licio Gelli, deve capire che in Italia c'è un grande nemico, ma quel nemico interno si chiama disoccupazione, si chiama corruzione, si chiama voto di scambio, si chiama mafia, si chiama 'ndrangheta e si chiama camorra. Eccoli, vabbè, al netto del 2,70 kg di retorica, il nipote di Licio Gelli, come gode Aurora Lussana, direi Piero Pelù, anti-Renzi. Ma dai. Vabbè, non dirmi che ti piacciono i piduisti, dai. Ma no, cosa c'entra? Adesso abbiamo sdoganato che Renzi è della P2, ma insomma, ma dai. Vabbè, ma dai. Era sul palco del 1° maggio, un artista è libero di dire tutto ciò che pensa. Sì, questo sì. Però visto che non ci sono i giornali, questo è lo spazio dedicato di solito alla rassegna stampa, la rassegna stampa. Il titolo di apertura della Padania di oggi sarebbe Fuori Italia, che è una straordinaria canzone di Davide Van de Sproost. Ecco, sì, va, ho capito, ma non so, sei innamorata di Van de Sproost adesso? Vabbè, mi piacciono i Comaschi, la gay non si può adesso. Non è che... No, comunque dovevi venire a Pontida ieri sera, c'è stato il pranzo con gli esodati, Salvini ha pranzato con il lavoratore in difficoltà, con le famiglie in difficoltà e... Forse sì, avrei titolato su questa Pontida. Sai, la fede non ha bisogno di miracoli, si dice. Anche la Lega non ha bisogno di miracoli, ma Pontida per noi è sempre un miracolo che Pontida, ha la fede. Pontida, ma c'è ancora la storia dell'acqua, l'acqua del Po? No, perché non passava l'ampolla del Po, non passava la Pontida. Faceva Monviso Venezia. Ecco, perfetto. No, ma poi ti mando un bigino sulla storia della Lega. Sì, infatti, devo studiare un attimo. No, Pontida è uno storico dove l'angurato, provincia di Bergamo, comuni, sì, bello. Poi menù straordinario. Ah, ecco il menù, attenzione, il menù, perché prima di farti sentire Salvini, perché tu pensavi che noi non avessimo Salvini, ma Salvini che ha salutato con grande passione i sindacati, prima di sentire questo, il menù di Pontida ieri cucinato da Aurora Lussana, peraltro, tra le altre. No, non è vero, ci sono dei cuochi straordinari, ma no, c'è di tutto, casoncei, foiade, stincola polenta, poi prezzi veramente popolari, non come la festa dell'unità, che una famiglia va lì meno di 60 euro non spende. No, 60 euro, dai, alla festa dell'unità 60 euro. Ma smettila. Scusa, io a luglio d'estate c'è la festa dell'unità a Bergamo, vado lì, controllo i prezzi. Non paghi ai comunisti. No, vado a vedere quello. Fai come i turisti che arriva davanti, dice guarda un po' il menù, vede un po' e poi te ne vai via perché i comunisti manco 2 euro. Comunisti. Vabbè. Adesso. Il comunismo è una grande tradizione. Vabbè. Comunque, allora, questo è il menù. Ti faccio sentire Salvini. Sentite Salvini, è 1° maggio. Grande saluto e abbraccio ai sindacati. C'è la festa di chi il lavoro lo cerca ma non lo trova, anche per colpa di quei sindacati che non fanno un cazzo da 60 anni, vanno in giro a chiacchierare e se ne fregano dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati, degli esodati. Il 1° maggio ce lo festeggiamo da soli. Grazie, viva la Lega, viva i lavoratori, quelli veri. E vada via il culo ai sindacati. Eccoli. Vada via il culo ai sindacati. Oh, bravo, va Salvini. Complimenti, buon 1° maggio. Tutti 100 anni di lotte, di diritti buttati così nel cesso a Pontida e così Aurora . I sindacati difendono gli insider. Io sono iscritta al sindacato dei giornalisti. Io credo che un sindacato che è capace di cogliere la complessità di sistema sia giusto che sopravviva, però quando tu difendi solo gli insider, quelli che sono dentro, quelli che tanto comunque riesci a tutelare, insider, non sei in grado di offrire tutela agli outsider, chi è fuori è fuori, chi è fuori è fuori, cioè, chi dentro in qualche modo si salva, chi fuori è fuori per sempre. Vabbè. Quando chiudono il portone extra omnes, cioè chi dentro più o meno in qualche modo si salva, gli altri li abbiamo persi per sempre così. Vabbè, allora, cara Aurora, io so che tu devi stare con noi pochi minuti, fine 7:30, eccetera. Sì, sto tornando da Pontida e quindi devo andare in redazione, quindi mi sono fermata. Vi rendete conto? Sta tornando da Pontida, ci ha fatto il giro della morte, del sonno. No, ma poi oggi ci intorno oggi pomeriggio, perché c'è un bellissimo convegno sugli indipendentismi. C'è Gilberto Neto, Eva Klotz. Eva Klotz mitica. Sì. Allora devo raccontare questa su Eva Klotz. Intanto voglio salutare Vincino che ci ha raggiunto. Avrà un'esclusiva incredibile per noi, Vincino, tra poco. Allora devo raccontare questa di Eva Klotz. Caro Vincino, c'è Aurora Lussana, l'avrai riconosciuta, se parla di indipendentismi è lei. Un giorno ho intervistato Eva Klotz, l'abbiamo invitata qui in radio, e sapete che Eva Klotz ha questa parlata un pochino alta tessina, cioè, allora sì, uno no, sud tirolese si dice, non dire l'alta tessina, è vero, austriaca sud tirolese, e allora però prende lo stipendio da noi in Italia, ma questo è un piccolo particolare, vabbè, comunque l'ho invitata, e uno su Twitter, ricordando la celebre scena di Fantozzi, mi ha scritto: ma perché non gli ha chiesto tu mancia? E vabbè, insomma, qua per i cultori di Fantozzi, e sarebbe stata la domanda più bella per Eva Klotz. E diteglielo alla Merkel, diciamogliela quando l'antirevisterete. Vabbè, devo dire male a Merkel. Però, Vincino, attenzione, è una grande esclusiva, perché chi ha detto che oggi non ci sono i giornali? Vincino per noi ha le aperture dei giornali fatte appositamente per lui, a cominciare dal Corriere della Sera. Io ce l'ho tutti. Ce l'hai tutti. Le mie due edicole di riferimento hanno tutti i giornali. Perfetto, cominciamo dal Corriere della Sera. Vabbè, il Corriere della Sera apre, c'è una dibattuta enorme con un incredibile Juve eliminata, a titolo tutta pagina, chi è? Mi piace il Corriere. E poi c'è accanto all'editoriale di De Bortoli, che praticamente, vabbè, su Bisignani e cose, c'è un'enorme foto, la foto di Rihanna in topless. E lui la mette, lei la mette, quella censurata da Instagram, il Corriere la dà. Rihanna in topless, infatti, in prima del Corriere, andate in edicola. Il Corriere vuole fare il record, tipo sì, 800.000, un milione di copie, no? Esatto. Praticamente è una foto stupenda. Esatto. Vabbè, comunque, questo è il Corriere della Sera. Questo è il Corriere della Sera. C'è Repubblica. C'è un pezzo di Ainis che consiglia a Renzi meno ma meglio, cioè invece di fare 100 stronzate, fanno le due buone, precise, tranquille e cose, no? E poi, ecco, fatte queste, fai le altre due, no? E invece si perde in 100 stronzate. Vabbè, questo naturalmente Ainis d'altronde si sa, Ainis è italiano, no? Sì, Ainis è un costituzionalista nonché compagno di poker di Vincino, sì, di partite a poker. Esattamente, no? È la cosa. Il Sole 24 Ore c'ha tutta questa storia qua sul web nero. No, il web nero non mica è quello là di Tor, no, il web nero è quello di Google, Amazon, è quella praticamente. Nessuno paga le tasse nel web. Il 40% del commercio in Italia ormai si fa nel web. Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Poi, assolutamente. Repubblica. Messaggero. C'è il Messaggero qua che praticamente Marino è un deficiente. Il titolo, no? È così perché perde 2 miliardi l'anno. No, dice, com'è che prende 2 miliardi? Cioè, basterebbe far pagare i biglietti. Mi senti? Sì, benissimo. Basterebbe far pagare i biglietti nei tram, nell'autobus, nel coso, dove praticamente è tutto gratis, cioè non c'è un controllore, non c'è, cioè, è semplicissimo fare come fanno in Francia, in Inghilterra: uno entra dal conducente e paga al conducente. No, questo è vero, devo dire a Roma, ma perché, devo fare un appello ai romani, ma perché nessuno di voi paga il biglietto? Cioè nessuno di voi, la maggior parte del perché non pagate il biglietto quando salite sull'autobus? Allora, io a Palermo lo pago, lo sai perché? Perché a Palermo mi hanno beccato 30 volte nell'autobus preso all'ultimo minuto, là ci sono i controllori, guarda, e poi prendono la macchina, non lo so che cosa, no? E là tante volte, se non è il biglietto, c'è il conducente che ne ha 3-4 e te li dà al doppio del costo. Paghi 2-3 euro e c'è. Ma certo, ma Vincino, ma c'è anche a Roma, ma questo lo sai perché? Perché i conducenti facessero i biglietti, lo smetterebbero di twittare, di messaggeri, di fare messaggeri. Tutte queste cose qua che è il loro sport preferito. Ma senti un po', ma Vincino, ti è arrivata anche la Padania? No, la Padania mi sa. La Padania. Adesso la trova. La Padania non è ancora arrivata. Poi c'è un bel gemellaggio, la Padania e il Foglio. la Padania, il Foglio, il Gemellaggio. Sì, sì, ci sarà un convegno dedicato alle saghe mentali. Sì, Futura Indipendenza, e ci sarà un giornalista della Padania, un giornalista del Foglio. Ma lo sapevi? Ma lo sapevi? No, non lo sapevo, veramente. No. È incredibile. Il Foglio, qualcosa, no. Cioè, sul fatto l'inchiesta, sul fatto c'è un'inchiesta di Lillo, cioè com'è che... poi ci sono due cose importanti sul fatto. Una là sul caso riaperto, la Procura di Genova riapre l'incidente, quello là di Grillo mortale, perché invece da colposo a pretesa intenzionale praticamente, no? Della questione. E poi l'ultima cosa del fatto là, cioè perché è stato fatto là, finalmente racconta la verità, perché è stato fatto fuori l'amministratore poi di Mani 2 anni fa, no? Non ho capito niente. Il Fatto Quotidiano è così, inchieste, robe, quindi esattamente, tutte cose complicate. Le cose non capisco. Senti, ma noi dobbiamo liberare Aurora Lussana. Ma dove sei in questo momento? Sono ferma, sta andando in redazione. Ma cosa ci fai in redazione alle 7:30? Ho accostato. Sì, ma sei l'unico direttore che va alle 7:30 della carta stampata, che va alle 7:30 in redazione. No, mi devo portare avanti e chiudere il giornale, che poi torno a Pontina. Ah, ecco, ma cucini anche qualcosa prima di... Per forza, sì. Cucini qualcosa, perché così qua stasera quando torni... Quello che mi hanno regalato a Pontina è un po' di foiade. Ma le foiade poi cosa sono, tecnicamente? Ma c'è una duplice tradizione orale anche sulle foiade. C'è chi dice che sono le lasagne, c'è chi dice che sono dei rombi di pasta fresca. Basta vederli e capire ci sono diverse tradizioni culinarie, aerobiche, comunque sempre aerobiche, e mi hanno donato le foiade. Sì, un po' di primili, però non è avanzato un granché, perché c'era il pienone ieri sera. Vabbè. E allora noi ti salutiamo, Aurora, ti lasciamo andare, Aurora Lussana, direttore della Padania. Tutti domenica a Pontina. Porto tutta la famiglia, anche la famiglia di Vincino, di Miriam Lucchetti, di Peter Bescar, tutti a Pontina. Certo. Ma ho sequestrato la Fangoso, cosa c'è a Pontina? Non ho capito. Anche te, Dio, mamma mia, la storia della Lega Lombarda, anche te. La storia dove la vedo là, come dire. Ma c'è il prato sacro. Ecco, c'è il prato fangoso, va bene, per dire, non lo so. A Palermo dice la storia, entra nella cattedrale e c'è la tomba di Federico II, la guarda, la tocca e dice: cavolo, Federico il Barbarossa, eccolo qua. E invece a Pontida arriva sul prato, mette l'elmo, la scimitarra lì e ricorda dai tempi passati, fasti, no? O no, Vincino? E gli tireremo un po' di polenta, cioè chi tira le banane mi tira la polenta, Oh, Vincino verrà accolto così a Pontina domenica. Va bene, allora grazie Aurora Lussana, andiamo due minuti in pubblicità, ciao. Vincino rimane con noi invece, perché abbiamo, Vincino ti devo far risentire poi che ha detto Piero Pelù, Piero Pelù, l'hai sentito ieri il concertone? Sì, ho sentito. Ma lo facciamo risentire tra poco, stai con noi. 24 mattino. E allora sono le 7:38 minuti, questo è lo spazio di solito dedicato alla rassegna stampa, ma non ci fosse Vincino che ci ha portato i suoi giornali personali, che solo a lui sono arrivati, solo a lui, a leggerci. C'è anche qualcos'altro, Vincino? Il giornale di Sicilia ti arriva di solito? No. Non ti è arrivato questo. Cosa? Il giornale di Sicilia non ti è arrivato. Il giornale di Sicilia, sì, no, come dire, c'è una copia molto molto stinta, molto che non si legge tanto bene, no, praticamente. No, ma il giornale, quando vado a Palermo, il giornale di Sicilia è il mio primo giornale. Perché supera il Corriere della Sera, si sa. Però vabbè, Vincino, visto che è un momento così, noi abbiamo la nostra segreteria telefonica, di solito la mandiamo alle 6:45. Ma senti qua un po' di nostre telefonate di ascoltatori che ci dicono come sempre la loro, I due principali difetti di Berlusconi sono il nanismo morale e l'onanismo verbale. Ciao Alessandro, allora Berlusconi mi sembra che non abbia ammazzato nessuno. Il signor Cesare Battisti, che ha ammazzato 4 persone, se ne sta libero e tranquillo in Brasile, mentre Berlusconi continuano ogni giorno ad attaccarlo, a dirgli che la sua condanna è troppo leggera. Quindi, non so, meditate, gente. ma io ho molta fiducia nei carabinieri, nelle forze dell'ordine tutte, però devo dire una cosa, che quelli che hanno applaudito quei tre delinquenti che hanno ucciso quel ragazzo di 18 anni, l'hanno fatto per solidarietà, quindi solidare per solidare vuol dire che anche loro sono delinquenti. Ciao Mina, riflettici. La Boschi cerca un marito. Agnese, stai serena. Ciao Ale, sono Rosanna da Bologna, ti sto ascoltando da sotto il cuscino. Ciao, un bacione. Vabbè, insomma, questa è un'ascoltatrice, Vincino, sono così, sai che le nostre voci ogni tanto entrano, che dire. Senti, faccio risentire Pelù? Te lo faccio risentire? Sì. Sì, ma sai che ha detto, ha preso due bersagli, aveva ieri, uno Renzi e uno Giovanardi. Senti questa, su, credo, Giovanardi. Giovanardi, vuoi sparare sulla Creuzzi? Senti Pelù. Ci vuole coraggio. Senti, no, dai. Io, gli unici cannoni che ammetto sono quelli che dovrebbe fumarsi Giovanardi. Mamma mia, ma proprio anche un po' banale come battuta. È proprio basica. Giovanardi, fatti una canna. Questo proprio no. E l'altro è Renzi. Senti, Renzi. Il non eletto, ovvero sia il boy scout di Licio Gelli, deve capire che in Italia c'è un grande nemico, ma quel nemico interno si chiama disoccupazione. Vabbè, poi corruzione, ma tanto l'abbiamo già sentito. Ecco, ma là, sono due fiorentini, eh. Tu, esatto, si odiano. Di fiorentini, i pazzi, cioè Agnelli e Lorenzo Daniele, Renzi e Lorenzo dei Medici, no? E lui è la congiura dei pazzi, per cui si sa come... E poi c'è un'altra cosa da dire, da quando lui frequenta la Carrà è un disastro totale, No, perché poi bisogna dire, no, Grillo inizia con Baudo, no, lui con la Carrà è madonna mia, cioè, sono due cose, io a me mi avessero detto a 20 anni, cioè, via a lavorare con Baudo, mai. È sempre stato uno dall'altra parte, terribile, proprio insomma, il vecchio, insopportabile, no, la peggio Sicilia la peggio cosa che sì, lui si fa di cose, ma dove ecco cosa da vergognarsi. Viene fuori il Vincino, no, Renziano, colui che ama Renzi, stima Renzi. Tra Renzi e la Carrà non c'è alcun dubbio, no, no, 100 volte meglio Renzi, dai. E tra Renzi e Pelù? Perché tra Renzi e Pelù? Tra Renzi e Pelù, ancora una volta, meglio Renzi, anche se Renzi ha 343 difetti, ma come dire... Ce lo teniamo così, no, poi un altro miliardario là, questo, ma stia tranquillo, no? Comunque, so, ha 343 difetti, ma nessuno è perfetto. Allora, una delle battute migliori è stata di Ferrero, giusto, perché sai, il 1° maggio, giustamente, no, torna in auge anche. Senti Ferrero, Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista. Io inviterei le forze dell'ordine a pensare che siamo anche noi i loro datori di lavoro e siamo anche noi il nostro pane, perché se ci fossero meno manifestazioni ci sarebbe meno occupazione in polizia. Trattateci un po' meglio, non è il caso sempre di mettersi a manganellare e poi di aprire scontri, perché stamattina era veramente possibile evitare qualsiasi eccola cosa lì. Eccola lì, insomma, Ferrero, visto che vi diamo il pane con le manifestazioni, un po' meno manganelli. Questo è l'appello che ha fatto Paolo Ferrero al 1° maggio. Ma tu, Vincino, che hai una lunga storia di manifestazioni, e come abbiamo detto tante volte, ma non lo diciamo a nessuno, sei stato anche in carcere. Ma sono stato anche fermato tipo 10 volte. Appunto. Io sbagliavo sempre il luogo dove scappare. No, andavo sempre a finire, paf, tra le braccia di cinque enormi questurini, mi portavano, una volta il mio terrore, a una manifestazione c'era un blocco per l'acqua, no? Sì. C'era un quartiere, non aveva l'acqua, no? Allora insomma bloccammo una strada, il comitato quartiere, gente del quartiere, insomma 200 persone bloccammo la strada, l'acqua arrivò il pomeriggio, però io andai fui bloccato in questura. Ma manganellavano? Menavano pesante, anche i carabinieri, quando mi arrestarono mi menarono pesantemente i carabinieri. Sì, anche dentro la caserma ci provarono, mi dissero levati gli occhiali, allora capii che l'unica cosa che non dovevo levarmi era gli occhiali, inizia a urlare prima che mi tocca urlare come un pazzo. Tanto arrivo il camion, cioè, che succede qua? Questa ce l'hai già detta, ma perché tu ti sei attaccato agli occhiali come unica ancora di salvezza? Perché io avevo capito che quando mi coleva gli occhiali è perché non volevo, che spaccavano gli occhiali, mi ferivano, mi facevano delle cose che poi si vedevano. No? Ecco, invece se tu ti levavi gli occhiali era finita. Era finita se mi levavo gli occhiali. ti sei attaccato agli un'altra occhiali. Un'altra volta a una scuola che c'erano... Cioè, insomma, vabbè, insomma, i fascisti arrivavano con cutelli e 10 dei suoi, cioè, pam, mi trovai solo, scapparono tutti quelli 10 attorno a me. Beccato anche stavolta. Beccato. No, sì, beccato sugli occhiali, fortunatamente, paf, mi cadono gli occhiali, allora capì io, resto e treno gli occhiali o scappo come un pazzo. E tu? Scappai come un pazzo e mi salvai. Sì, perché loro mi pestarono gli occhiali, guarda, vedere con cutelli altri dei suoi, che pestavano gli occhiali, fronte alla scuola Iti Marijuana si chiamavano, era un istituto tecnico, Maiorana. Insomma. Maiorana, no? Maiorana. No, non era in onore di Giovanardi. Litis Marijuana. Lo chiamavano così, ragazzi. Ascolta, sì. Litis Marijuana, Litis Maiorana. No, c'erano i grandi istituti tecnici industriali. Vabbè. Che ci vogliono anche oggi. Vabbè, niente, è il delirio. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Poi ho convocato subito, perché ha twittato poco fa, un interista doc, Silvia Brasca, te la presento tra un attimo. Eccoci, siamo qui alle 7:48 minuti, c'è Vincino che ha letto i giornali per noi e c'è anche Silvia Brasca del TG della 7. Buongiorno Silvietta, come va? Buongiorno, benissimo. Ti abbiamo convocato perché ho visto un tuo tweet, insomma, perché mi stanno massacrando via SMS, Silvia, perché gli juventini, ma sei uno sfigato, sei a meno 43, sei di qui una volta che poi le battute sulla... Ma fateci godere un mezza giornata di vedere Antonio Conte così con la faccia da pesce lesso, ma fateci, Silvia, ma tu... Alessandro, ma bisogna essere sportivi, noi siamo preoccupati per il ranking, ma stiamo scherzando, ma ieri dovevamo essere tutti i juventini, tutti per l'Italia, tutti abbracciati allo Juventus Stadium, tutti dai che fate questo gol, eravamo tutti lì a tifare, no? Certo, in nome dell'italianità. No, un po' anche, però non si può poi fare la caragnata sui 49 minuti di gioco, quelle partite si vincono, punto. Ecco, guardate, sentite il commento tecnico, ce l'aveva con Conte, ce l'aveva con Conte, ma è Silvia Brasca, dopo vi do l'indirizzo Twitter, anzi è così, è Silvia Brasca, potete scrivere cari Juventini, Silvia Brasca 2, Silvia Brasca, potete scrivere ai Juventini tutto quello che volete a Silvia Brasca 2, d'altronde anche il suo direttore Mentana è un interista, si sa, e quindi vabbè, insomma, basta Silvia, abbiamo detto quello che dovevamo dire sulla Juve. Tu hai festeggiato il 1° maggio? Sì, l'ho festeggiato. Avevo lavorato il 25 aprile. Appunto, le due grandi feste, mi sembra giusto. Ma che ne pensi, hai visto il concertone? Hai visto Piero Pelù definire il nipote di Gelli Renzi? Sì. Che ne pensi? Guarda, penso come Vincino, sta frequentando, anzi, Raffaella Carrà era meglio, se fosse stata lei sul palco, forse. Ecco, sì. Una battuta un po' frusta su Giovanardi, ma quella lì proprio, se la poteva evitare, vabbè, insomma, però... No, ma poi a me fa abbastanza, c'è il concio di milioni di gente, dopo la storia, dopo la beatificazione siamo ancora lì con i numeri, con il sì, e chissà cosa dice Vincino, chissà cosa dice la questura dei numeri. Erano 3 volte meno dei papi, dai, come dire, 4 volte meno, insomma. Certo, è vero. E poi, vabbè, insomma, lasciamo perdere, l'unica carina è quella là dei cosi, là di Grillo che stappa due senatori. Cos'è? No, questa me la son persa. Vergassola, che ha detto di Grillo stappa due senatori. sì, sarà stata una battuta un po' migliore, così messa così, non si capisce che no, vuol perché dire. Sai, poi queste copie di giornale che ho sono un poco stampate, a volte vengono male. Ah, ecco, appunto. Perché non hanno stampato al registro, devo fare prima le prime 2000 copie. Per poi comunque entrare, anche Vincino, anche Vincino, che di calcio non gli interessa nulla, ha detto che l'apertura del Corriere della Sera cos'è? Tutta Juve, pagina, Juve, tutta com'è, pagina, com'è Juve che... eliminata, tre punti esclamativi, tiè. Tiè, ecco, che rispetto al statement del Corriere è una cosa che certo, stupisce. Cioè no? L'apertura del Corriere a nove colonne, ma non è quindi sì. Non è che i juventini ve la dovete prendere come andate in edicola, comprate oggi il Corriere della Sera e vedrete questo titolo. Per cui... Vabbè, per tanto a Torino sono contenti perché hanno venduto il 13% in più di macchine negli USA, la Chrysler, la Fiat, la Jeep, la cosa, 13%. In più come Dino, e in contemporanea c'è quello l'ex amministratore della Ford che se ne va via con 800 milioni. Sì, sì, no, 300. Non 800, qua è No, 300. Cioè, vabbè, la differenza qual è tra 300 e 800? Dai, vabbè, insomma, ballano 500 milioni. Sì, io proprio l'ho citato oggi come primo personaggio. Alan Mulally avrà come liquidazione 300 milioni di dollari. Ha fatto la metà di quanto ha fatto Marchionne. Amministratore delegato della Ford, vai in pensione a luglio, 300 milioni di dollari. Vabbè, lo salutiamo con un grande abbraccio. Io saluto anche voi, Silvia Brasca e Vincino, vi ringrazio tantissimo. Ciao, ciao. Vi ricordo che dalle 8:15 alle 9 parleremo del libro di Mario Adinolfi, Voglio la mamma. È un libro contro... No, perché ridi, Silvia? No, è vero. È un libro scritto da sinistra, è contro i matrimoni omosessuali, contro l'eutanasia, contro l'aborto, contro l'omogenitorialità, contro questa idea di dire genitore A, genitore B. Voglio la mamma. Ci sarà Mario Adinolfi e avremo anche Vladimir Luxuria che si confronteranno su questo tema. Dalle 8:15 alle 9. Ecco, dalle 8:15 alle 9. Intanto vi ringrazio, alla prossima. Mattino. Eccoci, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Quando sono le 8:16, vogliamo parlare fino alle 9 in questo spazio di 24 Mattino, che oggi, ricordo, arriverà fino alle 9:30. Avremo ospite poi Luca Zaia dalle 9:05, governatore del Veneto. Ma qui vogliamo parlare di un libro che è stato scritto da sinistra, perché chi lo scrive rivendica fieramente di essere stato tra i fondatori del Partito Democratico, rivendica la propria storia politica, che è proprio una storia di sinistra, e il cui titolo è Voglio la mamma. L'autore è Mario Adinolfi, che saluto. Mario, buongiorno e ben ritrovato. Eccoci, buongiorno Alessandro, eccomi qua. Allora, Voglio la mamma è, leggo dalla prefazione, l'implorazione in qualche modo dei bambini, no? Quando stanno male, quando la febbre sale, magari non solo quella del termometro, quando hanno fame, quando l'adolescente appena magari d'amore, dicendolo a parole o con un vagito, le mie figlie hanno sempre fatto capire il concetto decisivo: voglio la mamma. Ora no, guai a dire mamma. Ora i burocrati del politicamente corretto hanno cominciato a spiegare che la mamma non esiste più, esiste il genitore 1 e il genitore 2, che esiste il diritto umano fondamentale della donna, quello di abortire. Ecco, tu inizi così e inizi un viaggio in questo libro per dire da sinistra no ai matrimoni omosessuali, no all'aborto, no all'eutanasia, no ai transessuali descritti come le donne all'ennesima potenza, perché un uomo è un uomo e una donna è una donna, insomma no a tutti quelli che definisci i falsi miti del progresso. È un libro molto forte, se si vuole, anche nelle tesi, che ha già provocato molte discussioni. Noi ne vogliamo parlare con te, ne vogliamo parlare con Vladimir Luxuria, che è qui con noi. Buongiorno Vladimir e benvenuta, eccoci qua. Buongiorno. Allora Mario, intanto perché questo libro scritto da sinistra con delle prese di posizione così forte, che per molti appaiono proprio tutt'altro che di sinistra? Se ne poteva parlare, cioè, di questi temi, in particolare a sinistra c'era un riflesso condizionato del non detto. Non affrontiamoli, sono temi divisivi, litighiamo solamente, buttiamo tutto sotto il tappeto, e in più stavano accadendo delle cose. Si stava decidendo e si sta decidendo su questi temi, anziché dando la parola ai cittadini e per via democratica si sta decidendo per sentenza, cioè su molti dei temi che affronto nel libro, penso all'utero in affitto, penso al matrimonio omosessuale, penso alla fecondazione eterologa, non decide più la politica, la democrazia, i cittadini, decidono le sentenze dei magistrati, e questa cosa mi agitava molto, cioè se tutto questo pacchetto di temi etici che io considero decisivi, mi sono occupato di tante cose in vita mia, sempre col sorriso, sempre divertendomi, su questa cosa ho scritto con grande fatica, perché sono temi angosciosi, complicati, pieni di risvolti umani, quindi non è semplice tracciare su carta quello che uno pensa con qualche nettezza, però mi sono reso conto che a sinistra, recuperando la lezione di Pierpaolo Pasolini, le lezioni quelle stranianti di Roberto Bobbio, insomma di grandi pensatori della sinistra, occorreva rimettere un punto per evitare che lo scivolamento nel non detto impedisse il dibattito. Io almeno il dibattito voglio aprirlo, sì, sì. Io voglio almeno discuterne, per esempio il fatto non so, di leggere che sulla fecondazione eterologa ci sia la Corte Costituzionale che decide, che a Grosseto ci sia un giudice che decida di far iscrivere due persone omosessuali sposate in America nell'anagrafe civile, il fatto che insomma i magistrati e non la politica decida, già questo è un motivo che ti dà, che sì, ti preoccupa. Mi agita molto. Io penso che queste sono decisioni proprie dei cittadini, del Parlamento, della democrazia, dei partiti che ne devono discutere. Non sono decisioni che può prendere un giudice monocratico in via solitaria, facendo della giurisprudenza legge, perché questo proprio non è accettabile. Allora vediamo punto per punto, anche se si vuole capitolo per capitolo. Perché no al matrimonio omosessuale? Il tema del matrimonio sessuale è legato al diritto di famiglia, insomma a voglio la mamma, proprio al titolo. Io non credo che possa essere esclusa la maternità dall'orizzonte di un essere umano, per cui io penso che, poiché il matrimonio omosessuale lo vogliono chiamare matrimonio e non accettano altre terminologie, perché ne vogliono i diritti conseguenti legittimamente, cioè il diritto ad adottare, il diritto ad avere i figli, il diritto alla pensione di reversibilità, sono queste le grandi questioni, perché poi se no sarebbe una questione lessicale, non è una questione lessicale. Io credo che un bambino abbia diritto ad avere una madre e un padre. Io non credo che il modulo che il Comune di Milano ha surrettiziamente proposto ai genitori, usando questo politically correct per cui non si può più scrivere mamma, ma si scrive genitore 1, genitore 2, sia una violazione pesante del diritto del bambino, tant'è che una mamma che si chiama Barbara, a cui voglio molto bene, ha fatto una riga su genitore 1 e su quel modulo c'è scritto mamma. Perché questo è, e questo è ineliminabile, se vogliamo prendere un istituto che esiste da oltre 2000 anni, pre-cristiano, attenzione, questo è un libro che non è scritto da un bacchettone, io nella mia vita ho combinato di tutto. No, di certo, tranne che un bacchettone, appunto, non si può definire. E la dedica è alle madri delle mie figlie, quindi insomma, come dire, insomma, si capisce che non è proprio nel cuore della iscrizione. Però insomma il tema è questo, si può ragionare sui diritti delle persone con molta chiarezza, io figure se voglio negare, perché poi si discute, l'omosessuale in coppia che vuole andare in ospedale a visitare, figuriamoci se ho qualsiasi cosa contro un omosessuale, però dal punto di vista dei diritti io vedo, e in questo libro lo scrivo più volte, che il diritto da tutelare è sempre quello del più debole. Allora, in questo caso del familiare, allora, il più debole è un bambino. Visto che hai messo già tanti elementi in discussione, però vorrei da Vladimir Luxuria, prima, se vuoi proprio Vladimir, facciamo anche un commento generale sul libro, non so se hai avuto modo di vederlo, comunque se hai letto le posizioni di Mario Dinolfi, che fanno molto discutere, hanno già creato un dibattito. Vogliamo però, Vladimir, partire dalla questione del matrimonio omosessuale, così andiamo per punti. Dice Mara Dinolfi: un uomo e una donna, questo è il matrimonio, e il bambino ha bisogno di un padre e di una madre. Allora, io credo che o si crede nell'uguaglianza o non si crede nell'uguaglianza. Non credo che esista un concetto di uguaglianza parziale, un po' come quando negli Stati Uniti d'America si era deciso che i neri potessero sì viaggiare sull'autobus, quindi con una concessione parziale, però se saliva un bianco il nero si doveva alzare e lasciare il posto al bianco. Io credo che oggi chi dice sì, ok, potete visitare il vostro partner se sta male in ospedale e quindi tenergli la mano nel momento più difficile, però non potete essere genitori. Cioè si sancisce questo concetto, secondo me, secondo il quale se sei gay comunque qualche diritto non te lo diamo. Noi eterosessuali possiamo decidere quali diritti concedervi e quali diritti non concedervi. Secondo me è un pregiudizio secondo il quale una persona in quanto gay o in quanto lesbica, perché a questo punto dovrebbe anche scrivere un titolo "Voglio un papà", visto che ci sono anche delle coppie formate da persone dello stesso sesso femminile, ecco, io credo che ci sia questo pregiudizio secondo il quale l'orientamento sessuale determina la patente per essere un buon o un cattivo genitore. A parte che io ogni giorno quando compro i quotidiani e leggo le cronache nere potrei portare degli esempi di pessimi genitori eterosessuali, quindi non vuol dire l'orientamento sessuale. Io credo quello che diceva mia nonna nella sua ingenuità, diceva i figli sono di chi li cresce. E allora l'idea che ci siano delle persone che hanno questo sentimento, secondo me, nobile, sì, per niente egoista, nobile, cioè la voglia di crescere dei bambini. Io quando sono stata in Africa, in Mozambico, io che non ci ho mai pensato di adottare un bambino, mai, quando sono andata in Africa perché avevo dato dei soldi all'UNICEF e sono andata lì a vedere dove andavano a finire e ho conosciuto questa realtà di 500.000 bambini orfani di genitori morti entrambi di AIDS, e ho visto un bambino di 8 anni che mi guardava con quegli occhi come dire prendimi, portami con te, a me mi si è smosso qualcosa dentro, adesso non so se definirla maternità, forse semplicemente un sentimento di prendermi cura di un altro, ed è un sentimento che hanno tutti. Però io la vedo come qualcosa di egoistico. Chiaro. È interessante questa frase, i figli sono di chi li cresce, perché nel libro tu Mario invece scrivi, è vero, ci sono delle situazioni anche, non so, di omosessuali che si ritrovano a un certo punto ad avere un figlio, perché non so, una eterosessualità, poi uno si scopre omosessuale, nel frattempo un figlio, si mette con un compagno o una compagna e cresce, ma nonostante ciò tu dici, ribadisci nel libro, quel figlio sarà sempre di una madre e di un padre, non della nuova coppia che si è formata, no? Beh, penso, vabbè, ovvio, anche io ho vissuto la separazione, la mia ex moglie sta con un compagno, ma quel compagno non sarà mai il padre di quella bambina, di mia figlia, cioè questi sono elementi su cui bisogna ragionare. Sì, ma questo biologicamente parlando, ma Vladimir Luxuria dice i figli sono poi di chi li cresce, di chi li ama, di chi... I figli sono sicuramente sempre e comunque figli di un uomo e di una donna, sempre e comunque, questo è un dato di natura biologica. Ineliminabile. Beh, vabbè, ma biologica però, biologica. Certamente c'è una dimensione sociale della genitorialità, ma la dimensione su cui... che non si può negare, perché questa cosa è innegabile, è a un bambino dare il diritto a avere la rintracciabilità della propria origine biologica. Perché dico questo? Anche il bambino di coppie che adottano, per essere chiari, ha per legge, dopo una certa età, il diritto a andare a cercare la propria origine biologica. Perché il legislatore pensa questo? E perché io, per esempio, mi oppongo alla fecondazione eterologa? Perché io ritengo che sapere da dove veniamo sia un diritto, mentre non è un diritto, a mio avviso, avere figli. Mi spiego. Se io, come maschio, avessi, e lo posso avere, questa grande invidia per le donne, vorrei tanto essere anch'io madre, esiste un limite di natura per cui non posso esserlo. E allora confondere un desiderio con un diritto è un elemento estremamente problematico. Questa è una delle accuse, Vladimir, che fanno appunto spesso, per esempio, a chi dal punto di vista biologico non può procreare, cioè volere avere un desiderio e confonderlo per un diritto acquisito. Vladimir. Ma io continuo a credere che ognuno deve avere il diritto a poter realizzare i propri desideri e i propri sogni, cioè non è un capriccio, perché cioè, diventare madre o diventare padre, io ultimamente sto seguendo un esempio che mi è molto vicino, cioè mia sorella che ha avuto una bambina, vedo quanto le si è stravolta la vita. È un diritto che diventa un dovere, perché poi c'è il dovere di tirar su il figlio, di occuparsi del bambino, di stravolgere le proprie abitudini, di dover fare tante rinunce, tanti sacrifici. Mi sembra così strano pensare che una persona che vuole diventare madre o che diventare padre è come se fosse una sorta di capriccio, come uno che vuole comprare l'ultima marca di un cellulare oppure che si vuole concedere un appartamento lussuoso. Non è così, si tratta di qualcosa che è dentro di noi. Io credo che anche se si parla soprattutto di fecondazione eterologa, che non è qualcosa che riguarda solo gli omosessuali, ma che riguarda gli eterosessuali. Voglio ricordare che la legge sulla fecondazione eterologa è una legge in cui è espressamente vietato, lo volle Fini all'epoca, sì, che poi dopo fece invece il gay friendly dell'ultima ora, comunque all'epoca Fini volle metterci proprio per scritto che la fecondazione eterologa fosse vietata per le coppie omosessuali. Quindi quella all'estero che si fa è semplicemente perché si fanno poi, perché poi avviene un'altra discriminazione, che poi è una discriminazione di classe, perché poi chi se lo può permettere, l'estero spende soldi, ci deve ritornare, eccetera. Semplicemente una persona che non riesce con un metodo naturale ad avere dei figli ricorre alla scienza, perché noi siamo così, siamo natura e siamo cultura, per fortuna. No, ma è chiaro, diciamo che il dibattito è molto molto profondo, e su una cosa sono d'accordo, quando Mario Dinolfi, che noi spesso anche chiamiamo, se parla di Luxuria, anche per scherzare, ironizzare sulle notizie che ci passano sulla testa tutti i giorni, in realtà è un dibattito che su questi temi tocca corde profonde che poi riguardano tutti noi, riguardano la nostra società. Facciamo così, riprendiamo tra 4 minuti dopo la pubblicità con Mario Dinolfi, il suo libro Voglio la mamma, con Vladimir Luxuria, per parlare degli altri temi e di approfondire questi temi, insomma, non solo la fecondazione eterologa, il diritto ad avere figli, ma anche l'aborto, che Mario Dinolfi scrive non è un diritto, in un capitolo che mi ha molto colpito già nel titolo. Ma come, si è combattuto da parte soprattutto, ma non solo, ma soprattutto delle donne, per avere e conquistare il diritto all'aborto, e leggere l'aborto non è un diritto in un capitolo di Mario Dinolfi come titolo mi ha certamente molto colpito. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:36 minuti, siamo con Mario Dinolfi, che ha scritto il libro Voglio la mamma, e con Vladimir Luxuria. Mario, una delle accuse più puntuali, secondo me, che ti sono state fatte è che estendere i diritti a varie categorie di persone non significa certo ledere i diritti di chi ne gode già. Faccio l'esempio: se si vuole estendere l'adozione anche alle coppie omosessuali, non è che per questo si limitano le adozioni per le coppie eterosessuali. Allora, per questo mi ha colpito molto leggere il capitolo 3 dal titolo L'aborto non è un diritto. Ma come? Vuoi fare macerie di tutte le battaglie che hanno fatto le donne per conquistarlo invece come diritto? Allora, per la legge italiana l'aborto non è un diritto, quindi non è una cosa, dice Mario Dinolfi. La legge 194 non definisce l'aborto un diritto, ma l'ultima possibilità in caso di una maternità rifiutata. È una prassi giuridica, giurisprudenziale, persino la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito che abortire non è un diritto, è una tragedia, è un fallimento, è appunto l'ultima possibilità che viene offerta alla donna in caso di maternità rifiutata. Qui però le cose cominciano a stridere, no? Perché qui abbiamo parlato fino ad ora di qua è bello fare figli, il diritto farli fare a tutti. Poi scopriamo, l'abbiamo letto sui giornali 10 giorni fa, che c'è una che vuole abortire perché non vuole andare, deve andare al Grande Fratello. Allora, l'aborto banalizzato ha generato, a mio avviso, motivazioni estremamente risibili se paragonate al valore di una vita. Questa è un'esperienza, io credo, che quando si diventa genitore diventa proprio fortissima, insomma. Sì. Perché quando fai il genitore affronti la amniocentesi, la villocentesi, cioè fai tutti quei passaggi in cui dici, ti fai la domanda, e se adesso mi dicono che io vedi, ho un mio amico professore albino che mi racconta, cioè 50 anni fa il professore universitario, che negli ultimi anni gli albini non nascono più, perché se con un amniocente si vede che c'è l'albinismo, che è una derivazione cromosomica, è un problema, però non è un problema insormontabile, quel bambino viene irrimediabilmente abortito. Sì, ricordati allora, però che la legge prevede sempre che il, diciamo, la condizione psicofisica della madre che deve... chi la nega c'è l'eventuale sofferenza della madre che ha spinto. Io non voglio toccare la 194, così la dico chiara, insomma non ho nessuna intenzione di toccarla, resti questa opzione, non diritto, resti questa opzione, ma posso fare una battaglia culturale per dire che è più importante valorizzare la vita, che il primo diritto, quello sì, è il diritto a vivere. Ah, ma la allora, battaglia culturale, guarda, su questo... Questa è la battaglia di Pierpaolo Pasolini, non è mia, è di Pierpaolo Pasolini, ho messo in Voglio la Mamma delle paginate non esplicite, di più, di una bellezza e di una durezza clamorosa di Pierpaolo Pasolini. A sinistra ci dovrebbe essere questa sensibilità, assieme al diritto persino orrendo a mio avviso, e non è un diritto alla fine inevitabilmente, della donna che vuole andare al Grande Fratello che per questo abortisce. Però io prima voglio far passare un criterio in cui il ragionamento intorno alla nascita o alla non nascita di un bambino sia estremamente legato prima di tutto al valore della vita. Ma questo sì, prima di sapere il parere su questo di Vladimir Luxuria vorrei sentire qualche ascoltatore. Stefania da Milano ci ha chiamato. Stefania, buongiorno. Buongiorno, anch'io sono per far prevalere la vita, ma soprattutto in una cosa in questa discussione manca, il punto di vista, lo sguardo da parte del bambino che deve nascere. Vogliamo dargli un ordine a questo mondo, vogliamo dare loro la possibilità di conoscere un mondo veramente che abbiamo conosciuto noi, ma perché questo è il punto, c'è troppa confusione, uteri in affitto, persone gay che vogliono i figli, ma loro hanno il diritto di avere una mamma e un papà, hanno il diritto di nascere, hanno il diritto, sì, e allora proponiamogli un mondo ordinato. Un mondo ordinato, per lei un mondo ordinato, usa questo aggettivo, cosa vuol dire ordinato? Confusione, già nelle coppie, nelle famiglie questi bambini vengono comunque a un certo punto, oppure vivono un divorzio, vivono della mamma e di un papà, che è veramente un momento drammatico per loro. In più, se da quando nascono non hanno una mamma e un papà a cui fare riferimento, che noi proponiamo, oppure decidiamo noi, chi siamo noi per decidere che loro non devono... Allora Stefania, no, ma è molto preciso, prendo questa e la giro a Vladimir Luxuria, se vuol fare un commento Vladimir, sia all'ascoltatrice sia sulla questione dell'aborto. Mi ha colpito molto quando Stefania dice un mondo ordinato, non disordine ma un po' di ordine, Vladimir. Ma io questo concetto di mondo ordinato, mondo pettinato, il mondo spettinato, non sono d'accordo. Ripeto, bisogna andare secondo me al cuore della questione. Una persona che ha il desiderio di adottare, di far nascere un bambino e prendersene cura, perché ripeto, poi diventa un impegno quotidiano, qualcosa che ti stravolge la vita, non è qualcosa che mette disordine in questo mondo. Spesse volte ho sentito questo termine dell'ordine, no? L'ordine, che spesso è un ordine semplicemente apparente, e i bambini non scelgono mai i propri genitori. Il bambino nasce in un contesto e poi quello è, dici, quello anche, è, anche se è eterosessuale, se magari è eterosessuale ma non sano, dici tu. Esatto. E quindi... io credo che esistano semplicemente dei buoni o dei cattivi genitori, delle buone o delle cattive madri, poi è così difficile anche fare questa classifica. Io credo che dei genitori che si preoccupano se il bambino c'ha la febbre, quindi gli procurano la medicina, che gli garantiscono il diritto di andare a scuola, che ascoltano, che si preoccupano dei figli, sono dei buoni genitori. E io, guarda, io posso anche capire, no? Cioè, allora, ci sono quelli che dicono no, i gay no, non possono avere figli perché sono potenzialmente pedofili o perché sono persone che fanno diventare gay i propri figli. Io con questi neanche ci parlo perché ovviamente non mi interessa. Mentre io mi interessa il dialogo con le persone che invece si preoccupano, no, di come possono venire su questi figli. Perché anch'io mi sono posto questa domanda tantissimi anni fa quando ho saputo la prima coppia. E vi assicuro che poiché ci sono tante altre nazioni dove questo è possibile già da anni, già da tantissimo tempo. Non è che ci sono stati degli psicologi, associazioni che hanno studiato questo fenomeno, e il risultato scientifico, non fatto da associazioni gay ma da psichiatri, è che questi bambini non vengono su disturbati rispetto ad altri. Quindi manca proprio di un fondamento, diciamo così, realistico, sì, l'idea che questi bambini poi nascono disordinati o che nascono senza punti di riferimento, o peggio ancora, bambini che non riconoscono neanche qual è la maschilità o la femminilità, perché è assolutamente sbagliato. Io devo dire, poi stanno arrivando anche tantissimi messaggi, poi personalmente, se volete, sia Maria Di Nolfi sia Vladimir Luxuria, ve li giro, nel senso, di ascoltatori. L'ultimo, per esempio, ci scrive una mamma, dice: bravo Di Nolfi, io mamma di un ragazzino down, avrei abortito, per fortuna non l'ho saputo e non l'ho fatto. Questo ci scrive una mamma. Vorrei sentire Alessandro da Firenze, ci chiama. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno Alessandro. Senti, io volevo intervenire sul discorso che i figli sono di chi li cresce. Sì. Allora, è vero solo in parte, perché io sono separato, ho un figlio che sta con la mia ex moglie e con un nuovo compagno, e a mia volta sto con una signora che ha due figli. Ora, io ho un rapporto, cioè, mio figlio vive con il nuovo compagno di mia moglie, certo, diciamo per 5 sesti del tempo, e io a mia volta vivo con i nuovi figli della mia moglie per la maggior parte del tempo, certo. Ma io, mio figlio resta mio figlio, cioè quando questi nuovi bambini della mia nuova compagna mi dicono, perché hanno un rapporto un po' particolare dal babbo, io ho trovato un nuovo babbo, cioè no, gli dico no, te il babbo ce l'hai, cioè io sono una figura diversa, no, ma chiaramente, ma cioè, il babbo ce l'hai. Ma no, ma è chiaro, biologicamente è così, si discute se esista, come diceva anche Adinolfi, una paternità sociale, insomma il crescere i figli, non solo vivere con loro. Con mio figlio, ma cioè, io ho un rapporto con mio figlio che è molto diverso con quelli della mia compagna. Su questo non c'è dubbio. Alessandro, la ringrazio. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi siamo ancora qui. Eccoci qui. Allora, ci sono tantissimi capitoli che tu, Mario, affronti, tanti temi: l'eutanasia, gli uteri in affitto, appunto la fecondazione eterologa, insomma tanti temi, come detto, che sono il termometro in qualche modo con cui misurare anche la febbre o la temperatura di una normale di una società, e sono temi certamente decisivi, però non posso non concentrarmi anche su questa posizione che tu hai, questa molto dura, nel capitolo 6, dal titolo "Il trans non è donna all'ennesima potenza". Utilizzi la frase, credo che disse Marrazzo, no? Quando fu pescato, poi fece un'intervista a Repubblica e li definì così. Tu dici: un uomo un uomo, una donna una donna. Non mi sembra un po' retrograda come posizione, Mario, questa? Io parto da quella affermazione, cioè il passaggio era pericolosissimo, cioè l'idea. Un'idea che, guardate, dentro a una certa cultura sta emergendo, ci sia, come dire, un'esaltazione della femminilità oltre la femmina stessa in una dimensione transessuale. Ma non è una società perfetta, non dovrebbe essere quella in cui della sessualità delle persone non ci deve importare neanche poi più di tanto? No, non credo proprio. No. Che la cioè, noi siamo l'inclinazione sessuale, sono cose diverse, di quello che avviene sotto le lenzuola non ci interessa. Ognuno fa liberamente quello che ritiene, ma quello che noi siamo nel capitolo, tra l'altro io non nego che ci sia una necessità di qualcuno in qualche caso di migrare da una propria sessualità verso un'altra, non sto negando questo, sto negando l'esaltazione della figura transessuale, perché se una persona di sinistra come il mio amico Marrazzo, che conosco bene, a cui voglio anche umanamente bene, mi va a dire in un'intervista sul principale quotidiano della sinistra italiana che il trans è donna all'ennesima potenza, io dico no, la donna all'ennesima potenza è la mamma che si fa il mazzo quadro tutti i santi giorni e tira avanti la carretta, quelle sono le donne all'ennesima potenza, Alessandro. Cominciamo a far passare questa idea che passa per strada, per esempio nei viali della prostituzione i trans vanno fortissimo, allora sì. No, perché si diventa, come dire, oggetti di attenzione morbosa, allora stiamo completamente travisando insomma, ma queste sono, la ragionevolezza sono delle cose, le battaglie insomma. Culturali che fa in questo libro una mamma Dinoso. È una mamma e liberamente vedo la donna all'ennesima potenza, non mi dite che è Brenda la donna all'ennesima potenza. Vladimir, su questo si impone un tuo commento Mi sento come dire toccate in prima persona in questo argomento. Allora, io dico subito che non sono d'accordo con la frase di Marrazzo, cioè non è che perché Marrazzo dice ho detto una cosa vuol dire che le trans la pensano uguale, ha detto una cosa secondo me sbagliata, io non mi sento una donna all'ennesima potenza, semplicemente cerco di fare del mio meglio per quanto posso, non è una questione estetica o una questione sensuale o di sessualità, è una questione di identità di genere innanzitutto. Io prima ancora nella mia infanzia di aver capito che mi piacessero i maschietti, ho capito che mi piaceva la femminilità, che mi sentivo di avere una parte di me femminile che ho tentato per quanto posso, poi ovviamente anch'io ho i miei limiti, la voce è questa qua e non ci posso fare niente, ho sicuramente che ne so, qualche caratteristica più maschile perché sono nata così, però così come fa ognuno di noi che cerca di rendersi, di piacersi allo specchio, io ho fatto delle modifiche al mio corpo. È vero che nasciamo tutti maschi e nasciamo tutti femmine, vabbè, non è proprio esattamente vero questo, perché ci sono anche 150 bambini l'anno che nascono con un sesso indefinito, però diciamo, generalmente si nasce o maschio o femmine, poi si diventa uomini o donne, come nel 99% dei casi. Però vi prego, non è che devo chiamare il WWF per chiedere di salvaguardare questa riserva indiana dell'1% come me, che invece non si è riconosciuto col sesso di nascita. No, ma questo quindi, certamente sì, ovviamente, però Mario Dinoso... Vorrei anche dire una cosa, non facciamo questo cortocircuito così automatico tra transessualità e prostituzione, è una minima parte delle transessuali quelle che si prostituisce, soprattutto andando avanti col tempo, le persone transessuali cercano di avere una loro dimensione affettiva, una loro dimensione lavorativa, cercano di vivere una vita tranquilla come tanti altri e non sentirsi obbligati alla strada solo in quanto trans. Sì, questo certamente. Vorrei sentire Gilberto da Verona, ci chiama. Gilberto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì. Senta, alcune considerazioni porto alla discussione. Primo, ho letto alcune recensioni anche del libro di Adinolfi e adesso mi sono anche convinto di una cosa, è un'idea sua personale, minoritaria, storicamente antistorica, e non vedo la grande necessità di darne grande importanza. Però poi la seconda considerazione è questa, mi sembra quasi come in alcuni casi anche nel passato si sono visti alcuni cambiamenti. Da quando i cattolici sono entrati preponderantemente nella vita della sinistra, c'è la corsa ad essere appiattiti nelle considerazioni più retrograde della Chiesa. Vabbè, caro Gilberto, vede che lei, già dando questa seconda parte della risposta, dice che c'è motivo per parlare. Non ho capito, possiamo ancora scegliere gli argomenti di cui parlare, e trovo invece questo un argomento molto molto alto da affrontare. Però Mario, devi difenderti da questa accusa, insomma, il cattolicesimo che si insinua nella sinistra e porta avanti gli aspetti più retrogradi delle battaglie della Chiesa. Vedi, io sono entrato nel Partito Democratico nel 2007 perché mi dicevano che era un luogo dove ci si andava a mescolare, poi progressivamente ci hanno un po' buttato fuori tutti, devo dire la verità, insomma, tutti quelli da Rutelli a Binetti, eravamo tutti parlamentari del Partito Democratico, insomma, siamo tutti alla fine stati accompagnati alla porta. Io credo che al di là di questo, insomma, al di là della dimensione politica, che queste battaglie siano profondamente invece dentro il cuore delle persone, e non mi sento per niente in posizione minoritaria, per niente. Ce lo raccontavano anche quando facemmo il referendum sulla legge 40, no? Che questa linea sarebbe stata l'idea retrograda, assolutamente minoritaria. Alla fine il 75% delle persone non andò a votare a quel referendum, raggiungendo il minimo storico della partecipazione al referendum, e pochi mesi dopo a un referendum sulla Costituzione, sulla riforma del titolo V, partecipò più del 50% e non c'era neanche la necessità di fare il quorum a quella referendum lì. Quindi vuol dire, io credo, insomma, E comunque accetto questa sfida qui. Confrontiamoci democraticamente. Abbiamo opinioni diverse nella sinistra e nel paese. Confrontiamoci democraticamente. Non usiamo il non detto, non mettiamo questa che qualcuno considera polvere sotto il tappeto, non facciamo decidere la magistratura con i suoi organi monocratici, affrontiamo seriamente la questione. La Corte Costituzionale mi cancella l'eterologa, bene, si torna in Parlamento e si rifà. No, non è che si discute. Ma no, mai chiaro, mai chiaro, mai chiaro. Ma questi sono l'utero in affitto, che due sentenze recentissime proprio del Tribunale dei Tribunali Lombardi ha introdotto. Per me è un'aberrazione, posso averla questa opinione. Ma assolutamente sì. Qualcuno ti va a comprare l'ovulo in India, sfrutta una donna indiana, la usa come incubatore, poi si compra suo figlio, perché di questo è, perché quell'ovocita non è suo. Io dico, questo a sinistra qualche domanda la porrà. A questo certamente, ma infatti tu fai questa battaglia, io ti ho invitato e siccome devo concludere, dico, leggete il libro, prendetelo, Voglio la mamma di Maria Di Nolfi, e poi comunque la pensiate, discutete. Mario, ma se state qui un'ora, manco ti ho parlato del biplete che avete fatto quest'anno, il biplete, due volte, due coppe avete perso, eliminati da due coppe, Champions League. E vuoi farli in una stagione, il sono biplete ancora schiantato, un po' di il biplete avete fatto. Mamma mia, grazie Marione Di Nolfi e grazie a Vladimir Luxuria per essere stati con noi. Ma non finisce 24 mattino, anche oggi arriviamo fino alle 9:30, avremo ospite Luca Zaia per parlare di immigrazione insieme, poi dopo avremo ospite anche il portavoce di Cecilia Malmström, commissario agli affari interni dell'Unione Europea. Immigrazione tra poco, state con noi dopo il giornale radio 24 mattino. Eccoci qui, sono ancora Alessandro Milan, alle 9:08 minuti anche per oggi, arriviamo fino alle 9:30, poi da lunedì il nostro orario abituale riprendiamo dalle 6:30 alle 9. E intanto voglio salutare, per fare due chiacchiere, interviste di attualità sull'immigrazione, ma non solo, il governatore del Veneto Luca Zaia della Lega. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Senta, parliamo di vari temi, ma intanto mi ha colpito questo. Ieri lei il 1° maggio ha fatto questo slogan, diciamo, io sto con le commesse. Sapete che ogni anno il 1° maggio c'è questa battaglia sulla apertura o meno dei negozi, soprattutto dei centri commerciali. Perché Luca Zaia sta con le commesse e quindi con, immagino, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali? Guardi, perché semplicemente sono una persona coerente, è una battaglia che ho condiviso fin dal suo inizio e penso che non è che si stravolge l'economia o chissà quali altri parametri non tornano se si chiudono i centri commerciali la domenica. Noi qui abbiamo un vero e proprio movimento di popolo, di commesse e di commessi che chiedono di poter stare a casa giustamente la domenica. Ma anche lei dice anche la domenica in generale, non solo il 1° maggio, quindi non solo le festività, proprio anche ogni domenica lei chiuderebbe tutto? Ma sì, guardi, non c'entrava nulla a dire la verità. Proposto quello di pensare che comunque hanno diritto anche questi lavoratori ad avere un giorno di pausa. Ed è altrettanto vero che se è vero che ormai i centri commerciali diventano anche un centro di riferimento sociale per una passeggiata, eccetera, noi in Veneto abbiamo un sacco di belle piste ciclabili, le colline, e molte località da visitare, il Piave, insomma, si possono portare i bambini all'aria aperta senza portarli ai centri commerciali. Questo sì, però le diranno che è antiliberale, no? Perché insomma, la liberalizzazione dell'acquisto, anche la libertà di poter fare la spesa la domenica se uno per esempio non può farlo. Beh, guardi, le dirò che la libertà nostra finisce dove inizia quella degli altri e viceversa. Questo dovrebbe essere il liberismo. E le dico anche di più che il tema della spesa è un tema che si può tranquillamente organizzare come si fa all'estero in molte altre giornate, magari con altre fasce d'orario, perché il vero problema della spesa è quello di poter magari trovare i negozi aperti alle 8 o alle 9 di sera, non sicuramente quello di trovarli la domenica mattina. Certo. Allora, veniamo al tema dell'immigrazione. Lei nei giorni scorsi ha ribadito, ha detto, secondo la mia posizione, Mare Nostrum, cioè questa missione per andare anche a salvare in mare i migranti, è stata un fallimento. Perché è un fallimento? Cioè, quale alternativa ci sarebbe? È della linea respingiamoli? Beh, guardi, la verità innanzitutto è che non si possono continuare a illudere delle persone spesso disperate sul fatto che in Italia ci sia il giardino dell'Eden, quindi noi mandiamo anche dei messaggi negativi, pensi solo a che messaggi arrivano con le paraboliche nei paesi africani, nel Maghreb, in generale in tutti quei paesi dove noi mandiamo messaggi che abbiamo giochi a premi a tutte le ore, che è un divertimento continuo, invece forse i messaggi giusti da mandare è che qui si stenta a vivere lavorando e molti sono disoccupati. Le dico ad esempio che in Veneto su 5 milioni di abitanti abbiamo oltre 500.000 immigrati, la quasi totalità si è bene integrata, partecipa alla formazione del nostro prodotto interno lordo, ma 30.000, 40.000 di questi adesso hanno perso lavoro. Però Zaia, quindi, diciamo, ci dà un'immagine come quando si diceva in Albania, quando arrivavano dall'Albania vedevano la TV commerciale italiana e pensavano che fossimo nel paese del Bengodi. Secondo lei vale ancora questo principio? Ma guardi, è esattamente così. Infatti io farei una pubblicità progresso spiegando cosa sta accadendo in Italia. Perché se lei sente l'idea, io ne conosco moltissimi immigrati che ti danno di quello che pensano dell'Italia, poi ne viene fuori uno spaccato che sembra che sia il riscatto sociale garantito. Non è così. Quindi lei farebbe proprio una pubblicità dicendo, non so, in Italia si sta perdendo il lavoro, ma è proprio rivolta agli immigrati, cari stranieri, non venite qui? Beh, magari un bel sottopancia, un rullo che scorre quando ci sono le trasmissioni via parabola, varrebbe la pena di farlo per tutti coloro ovviamente che hanno modo di accedere alle fonti di informazioni. Mi dà dire una cosa, io accolgo l'appello del Papa che dice che ci vuole umanità e comunque ha fatto un appello alle istituzioni di Santo Padre, però l'umanità, il bene comune è qualcosa che è reversibile. Sì. A me non sembra un comportamento umano fare arrivare gli immigrati e poi lasciare liberi, come si può dire, al loro destino senza poi preoccuparsi di quello che sarà il loro destino. Ma certo, ma questa non è una colpa di un paese che deve organizzarsi, cioè che colpa il migrante che arriva e poi magari, non so, riesce a scappare, perché lei dice poi non scappano, ma questo dovrebbe essere lo Stato che si organizza per evitare che succeda. Ma guardi, io direi di più, che è vergognoso e deplorevole il comportamento dell'Europa, che vive Lampedusa come il confine d'Italia, non come il confine d'Europa. E l'Europa che è totalmente latitante, l'Europa che sa che molti di questi immigrati arrivano sulle nostre coste, siamo di fronte a una vera e propria diaspora e magari ambiscono o di restare in Italia o molto spesso di andare in Francia, in Germania, in altri paesi. Non si capisce per quale motivo questa Europa che è tanto attenta alle politiche dell'immigrazione magari non preveda di prelevare questi immigrati e portarli in Germania, in Francia, da altre parti. Stiamo parlando di un'Europa che ha sospeso Schengen un paio d'anni fa, permettendo alla Francia di chiudere addirittura le frontiere. È una cosa vergognosa. Ecco, ma infatti, io spero che l'appello del Papa venga accolto dall'Europa. Lei infatti ha detto anche questo, cioè portate questi migranti a Bruxelles. Guardi, io le faccio sentire la voce di Michele Cercone, che è il portavoce della commissaria europea per gli affari interni Cecilia Malmström. L'ho intervistato questa mattina, più avanti sentiremo l'intervista completa, ma gli ho fatto proprio una domanda specifica sul fatto che lei dice l'Europa non fa abbastanza e portateli a Bruxelles. Senta il portavoce del commissario Malmström, così poi lo commenta. Quello che posso dire è che se vogliamo guardare la fotografia europea della ripartizione dei profughi e dei rifugiati, credo che ci sia a guardare davvero i fatti. Nel 2013 sono arrivati in Europa 425.000 persone che hanno chiesto asilo e di queste 250.000 e oltre l'hanno chiesto in tre soli paesi, Germania, Francia e Svezia. Il rapporto tra il numero di richiedenti asilo in Germania, che è circa 125.000, e quello italiano, che è di circa 28.000, parla da solo. Quindi credo che a volte bisognerebbe informarsi bene prima di parlare di possibili soluzioni o meno. Insomma, la situazione in Europa è molto chiara, ci sono paesi che sono sotto pressione migratoria di richiedenti asilo, ma se guardiamo la ripartizione complessiva, Francia, Germania e Svezia fanno già la parte di metà dei paesi dell'UE, quindi credo che ce ne sono altri, compresi l'Italia, che dovrebbero migliorare le proprie condizioni e cercare di rispettare i propri obblighi che derivano non solo dalla legislazione europea ma anche dai trattati internazionali come la Convenzione di Ginevra. Insomma, Zaia, Cercone in qualche modo respinge al mittente, dice no, sono paesi come Germania, Francia e Svezia che fanno il grosso dell'accoglimento dei profughi, l'Italia anzi è indietro. Ma guardi, risponde questo signore che cioè, io non conosco, immagino sia un dipendente, essendo un portavoce stipendiato dal commissario europeo, sì, quanto certo. Dell'Unione Europea. Io dico che fa rabbrividire sentire un commento del genere. Quando un signore come questo dichiara che altri paesi fanno la loro parte, cita Germania, Svezia e Francia, io gli vorrei chiedere se arrivano con i gommoni in Svezia, in Germania e in Francia. Un discorso è l'asilo politico gestito con l'arrivo magari con un volo charter o con mezzi dove tu fai programmi un viaggio. Noi siamo davanti a una diaspora di disperati. Questa è la verità. La qualità dell'immigrazione che arriva in Svezia, lo continuo a dire, non è quella del gommone che parte dalle coste libiche con gli scafisti, è quella comunque di immigrati che chiedono asilo politico, chiedono ospitalità, ma con delle modalità che sono del mondo civile. Quindi questi esempi veramente li rispedisco al mittente. Questo signore sa anche di cosa sta parlando. Certo. Si preoccupi piuttosto di andare a Lampedusa e di risolvere il problema, a parte il fatto che mi lasci dire i portavoce non risolvono i problemi, portano solo voce, quindi non hanno il portavoce del commissario Malmström, essendo italiano, diciamo, è anche un'accessibilità linguistica, no, guarda, per noi giornalisti. Scusi, noi dobbiamo, glielo dice uno che è andato in Consiglio dei Ministri in Europa da ministro, noi dobbiamo smetterla di andare col cappello in mano in Europa. E guardi che non sto facendo politica, non penso agli europei. Le dico che non possiamo andare lì a farci dare i compiti per casa, per l'economia, per il bilancio pubblico, eccetera, e poi davanti a un problema grossissimo come questo ascoltare il portavoce del commissario europeo che ci viene a fare la lezione. È scandaloso. Allora io nel salutarla le faccio un'ultima domanda sulla questione delle grandi navi che a Venezia e quindi in Veneto è molto molto sentita. Lei ha detto che entro fine maggio si deciderà quali saranno i percorsi per le grandi navi a Venezia. La sua posizione è, per esempio, lei non è di quelli che dice le grandi navi proprio non devono accedere a Venezia perché deturpano, non so, ha presente Adriano Celentano, tanto per capire. Ma guardi, evitiamo di fare demagogia, spieghiamo bene velocemente. Noi siamo tutti per la fuoriuscita delle grandi navi dal bacino dal San Marco e dal canale della Giudecca. Punto. C'è un decreto da applicare per le navi con più di 40.000 tonnellate. Da questo momento in poi diciamo vogliamo che mantenere la croceristica, vogliamo l'attuale marittima, quindi terminal passeggeri, chiediamo semplicemente che sia identificata una viabilità acquea alternativa. Questa è la mia posizione. Altri dicono che la croceristica non ci deve più stare a Venezia. In tutta sincerità, 4.000 occupati e rinunciare a tutto un traffico di turisti, sono circa 1.800.000 turisti, io non me la sento di dire che la croceristica la dobbiamo regalare a Istanbul o al Pireo, perché questa è la soluzione. Quindi insomma un'altra via acquea, ma no a dire no alle navi, ecco, questo perché porta un indotto economico. Ma le posso garantire che ci siamo, cioè non è che sto parlando di fantasie. No, entro fine maggio. Fine maggio si chiude questa partita. Infatti. Intanto la ringrazio, Luca Zaia, grazie per essere stato con noi, governatore del Veneto, della Lega. E allora, visto che lo abbiamo sentito per rispondere a Luca Zaia, ma anche per allargare il discorso all'accusa che viene sempre fatta, cioè l'Europa non fa abbastanza in termini di affrontare questa questione dei migranti in Italia, vogliamo proprio sentire Michele Cercone, ricordo è il portavoce di Cecilia Malmström, che è commissaria europea per gli affari interni. A partire da questo, da parte dell'Italia c'è sempre questa sensazione, abbiamo detto, di essere abbandonati. E allora ho chiesto a Cercone quali sono i fondi che l'Europa destina all'Italia e perché c'è questa sensazione da parte di Roma di essere lasciata al proprio destino. Partiamo dai fondi e da quello che è disponibile rapidamente. L'Italia nel periodo 2007-2013 ha ricevuto quasi mezzo miliardo di euro per la gestione dei flussi migratori e dei richiedenti asilo. Per il periodo fino al 2020 ci sono risorse pari a quasi 320 milioni di euro che verranno assegnati all'Italia. Solo per la crisi di Lampedusa l'Italia ha ricevuto 30 milioni di euro in più, che hanno tra l'altro e stanno contribuendo alla missione Mare Nostrum e all'accoglienza dei rifugiati e degli immigrati su tutto il territorio della penisola. Ci sono poi due missioni Frontex che sono state estese e finanziate dalla Commissione Europea per sostenere l'Italia, e a questo va aggiunto il nuovo strumento tecnologico Eurosur, che permette di identificare meglio e di soccorrere i migranti in mare. Anche questo, i costi di sviluppo sono a carico di Bruxelles. Il problema di fondo sia sempre lo stesso, cioè intanto bisogna essere chiari su che cosa l'Europa deve fare secondo l'Italia, perché noi sentiamo sempre questo ritornello: l'Europa ci aiuti, però bisogna anche essere molto fattuali. Negli ultimi mesi noi non abbiamo ricevuto dall'Italia nessuna richiesta specifica di intervento, né di finanziamenti né di azioni mirate, e i meeting, gli incontri non sono mancati, perché noi siamo in costante contatto con le autorità italiane. Quindi se deve essere un refrain politico mirato, non voglio dire a scopi elettorali, ma sicuramente per essere udito dall'elettorato interno, è un conto. Se vogliamo essere fattuali e concreti, allora l'Italia ci dica di cosa ha bisogno. Ci sono state riunioni del board di Frontex in cui l'Italia non ha presentato richieste, ci sono costantemente riunioni a alto livello con i funzionari della Commissione che sono pronti ad ascoltare. Quando l'Italia ci ha chiesto aiuto in quanto Commissione Europea, come sì come tutti gli Stati membri, noi ci siamo mosse sulle linee che l'Italia ci ha indicato. È stato dato. Però dal punto di vista, dal punto di vista economico, lei dice i soldi ci sono, ma che vuol dire, che vengono spesi male in Italia? No, però questo vuol dire semplicemente che bisogna forse fare una programmazione meno collegata alla gestione emergenziale dei flussi migratori e più strutturale e strategica. Io credo che uno dei problemi, se faccio il paragone con altri paesi in cui il numero di profughi è molto maggiore e le condizioni di accoglienza sono migliori, probabilmente c'è una visione più ampia, più strategica, più strutturale del problema, e non si tende a indicarlo come una sfida da risolvere soltanto in alcuni momenti, sì, dell'anno. Come purtroppo questo. Tra l'altro, a proposito di queste stime emergenziali, lei può confermare o sapete qualcosa di questi 800.000 immigrati che dal Viminale, dal Ministero dell'Interno, dicono potrebbero premere sulle coste dell'Europa e in particolare dell'Italia? Guardi, noi non abbiamo le stesse fonti né abbiamo metodologie prestabilite, ogni paese ha le sue informazioni che arrivano dai suoi servizi interni che gli permettono di avere una valutazione di massima, quindi io queste stime non posso né confermarle né infirmarle in nessun modo, le posso però dire più o meno qual è l'ordine di grandezza che vediamo in Europa. Se guardiamo, come dicevo, i richiedenti asilo ce ne sono stati 435.000 nel 2013, se guardiamo il numero di immigrati che vengono intercettati passando irregolarmente una frontiera dell'UE nell'ambito di operazione Frontex, siamo intorno a circa 100.000 l'anno, che sembra però essere soltanto una piccola parte, perché parliamo davvero solo di quelli che vengono intercettati e quindi non abbiamo informazioni su quanti invece poi passano senza essere avvistati o fermati le frontiere. Quindi sull'ordine di grandezza non mi sento di fare commenti. Certo, rimane un discorso di fondo molto chiaro: i flussi migratori ci sono e ci saranno, non possiamo illuderci che diminuiscano né che sia un fenomeno puntuale, è un fenomeno che ha dimensioni ampie ed è per questo che bisogna essere pronti. Bisogna anche capire che ci sono obblighi internazionali, ci sono alcuni elementi di fondo da rispettare, da cui nessun paese è stato membro, a cui nessun paese è stato membro si può sottrarre. Io la cosa che vedo, guardandole, ripeto, la gestione in paesi diversi, è che laddove si fa un discorso di programmazione sul lungo periodo e si capisce che tanto questo è un fenomeno che va gestito, le cose sembrano funzionare meglio. Sì. Quando ci si limita a cercare una gestione degli arrivi al momento e nel momento in cui arrivano le frontiere europee, beh, questo diventa più difficile. Per questo la Commissione si muove per esempio nel medio e lungo termine per cooperare con i paesi di origine e di transito. Noi abbiamo chiuso un accordo con il Marocco, con la Tunisia, accordo di riammissione con la Turchia. Abbiamo adesso il problema Libia, chiaramente, ma lì il problema è più strutturale e credo che non ci sia una sola soluzione semplice a una situazione così complessa sul territorio. L'ultima domanda riguarda la missione Mare Nostrum, che in Italia è oggetto di critiche, di dibattiti politici, cioè secondo alcuni l'idea di andare a soccorrere in mare anche con la Marina aiuta, incentiva i migranti a vedere l'Italia come approdo. Voi avete una posizione sulla missione? Guardi, queste sono scelte delle autorità italiane, la sorveglianza delle frontiere è una competenza nazionale e l'Unione Europea e la Commissione sono lì per sostenere e aiutare negli sforzi, quindi è una valutazione che va lasciata alle autorità italiane. Io direi solo una cosa, guardiamo la differenza tra il prima e il dopo. Nel corso dell'operazione Mare Nostrum sono state salvate decine di migliaia di persone e non mi sento di escludere, credo che nessuno lo possa fare, che di queste decine di migliaia di persone tante avrebbero perso la vita, perché non è che la pressione migratoria sull'Europa diminuisce o aumenta in base alle scelte che vengono fatte di sorveglianza delle frontiere. Io sono sicuro che queste persone o la stragrande maggior parte di esse avrebbero comunque tentato di attraversare e forse ci saremmo trovato di fronte ad altre tragedie umane. So che i costi sono ingenti, so che gli sforzi sono tanti, ma gli obblighi sono quelli e soprattutto certo, non credo che le vite umane abbiano un prezzo. Questo almeno è il parere dunque di Michele Cercone, che ricordo è il portavoce del commissario europeo per gli affari interni Cecilia Malmström, con la polemica che ogni giorno si fa sempre più intensa sulla questione dei migranti, che viene sempre riproposto anche come un tema tra Italia e Europa. È vero, facciamo parte dell'Europa, ma dall'Italia molte accuse vanno a Bruxelles a dire è un tema che non affrontate con la stessa urgenza, visto che le frontiere poi sono nostre, anche se sono europee, sono nostre e le emergenze sono nostre quelle da affrontare. Va bene, con questo tema concludiamo anche la puntata di oggi di 24 Mattino. Da lunedì prossimo torniamo ai nostri canonici orari e dunque dalle 6:30 alle 9. Che dire, io voglio ringraziare Miriam Lucchetti in redazione, anche qui il 1° maggio, il 2 maggio, così come Peter Bescapè, il nostro alpino che conta quanti giorni mancano, 5 giorni, settimana prossima, basta, è già a Pordenone, già con la testa, la penna nera l'ha spedita già a Pordenone per la donata degli alpini e insomma il nostro Peter ve lo mandiamo. Ringrazio anche Alessandro Marco Tulli e Anita Panizza in redazione. E che dire, niente, ci sentiamo lunedì, mi raccomando, puntuali alle 6:30 con 24 Mattino.